Un programma con l'occhi da matto. Di Simone Pizzi. Sì. Belli di casa, bentornati a questo nuovo appuntamento con il grande Reset, il grande Reset, non lo so, come si dice, non fa niente, non importa, la terza puntata addirittura, incredibile, oh. Chi l'avrebbe mai detto che questa cosa mi avrebbe veramente preso, invece lo sta facendo, e ci sono anche già delle puntate in elaborazione, poi dopo ve lo dico, anzi lo dico prima di iniziare la puntata vera e propria, in modo che se vi viene in mente cominciate a mandare gli audio, perché questa cosa di farla insieme a voi mi piace molto e devo dire che è uno stimolo, uno spunto molto interessante, anche perché prendere da quello che viene detto dalle persone come voi che partecipano, ovviamente mi permette di fare anche dei controragionamenti, insomma, di non stare solo a parlare con me stesso, diciamo che è una cosa che mi riesce bene, ma non è detto che poi riesca, insomma, abbia sempre un senso. Detto questo, però, prima di iniziare, intanto vi ricordo che domani sera ci sarà la puntata di Runtime by Night, quindi di sabato praticamente, eccezionalmente, e questo praticamente per favorire ovviamente la partecipazione di un grande ospite, insomma, che ci fa veramente piacere averlo con noi, che è ovviamente Samuel di Radio Anziano, che ha una gran voce, devo dire, è uno di quelli ai quali consegnerei le chiavi di Runtime. Però questo poi significa che a un certo punto, perché le chiavi di Runtime in realtà l'ho consegnate a tutti, quindi però detto questo, mi fa piacere questa cosa. E a proposito della Radio Anziano, vi ricordo che martedì e giovedì mattina alle ore 8 partiremo, diciamo, con un percorso legato ovviamente a Radio Anziano, che trasmetterà, insomma, qui su Runtime Radio le puntate partendo dalla prima stagione, così, insomma, avremo modo anche noi di accompagnarci con questi mix up particolari, questo modo di fare radio che a me piace tantissimo, anche perché poi comunque gli episodi sono tutti abbastanza brevi e sono comunque piacevoli da ascoltare, anche, insomma, Radio Anziano in particolare comunque si aiuta molto non soltanto con la musica e con i mix di Samuel, ma ovviamente anche alla partecipazione di tutti coloro che vogliono mandargli dei messaggi audio e comunque magari più o meno attinenti con i temi della puntata, insomma, diciamo che noi siamo, diciamo, sembriamo un po' la versione estesa di quella cosa lì. E invece, se vi capita di, diciamo, seguire Runtime Radio su Twitter, non è difficile trovarla, insomma, Runtime Radio. Vedete che noi stiamo facendo oramai uno scontro aperto con Spreaker, che Spreaker è la piattaforma che oramai da 7 anni, insomma, da diverso tempo, forse anche più di 7 anni, è la piattaforma con la quale noi ci siamo ovviamente appoggiati per fare tutto quello che facciamo, ossia prevalentemente i podcast, inizialmente anche l'idea della web radio, perché Spreaker era nato come repository di podcast, ma era nata anche come concezione di streaming, quindi loro la definivano la social radio, ossia praticamente tutte piccole emittenti radiofoniche, web radio, che trasmettevano in live e che si connettevano fra di loro. Ovviamente questo tipo di modello sta cambiando in maniera radicale negli ultimi anni, un po' perché non è più un'azienda italiana, adesso è un'azienda americana, un po' perché ovviamente il modello del business è quello dei podcast 15 anni dopo gli Stati Uniti, e un po' perché ovviamente i podcast sono diventati tutti commerciali e quindi oramai il concetto di podcast dipendente non esiste più, e quindi loro stanno facendo piano piano tutta una serie di modifiche, diciamo, alla loro politica commerciale che penalizza le realtà come Runtime, le penalizza non soltanto da un punto di vista tecnico e da un punto di vista strutturale, ma anche da un punto di vista economico, perché chiaramente loro, sapendo che sono l'unico servizio che permette a un account, quindi a un publisher come Runtime, di avere multifeed, quindi tantissime trasmissioni, giustamente quando tu c'hai un problema loro ti dicono ma dove andate, tanto siamo gli unici che vi permettono di fare questa cosa qui. E ovviamente questo aumento di insomma di investimento, no? Quindi di richiesta economica, non è poi proporzionata anche all'aumento della qualità tecnica complessiva. E molti mi dicono: sì, vabbè, ma l'audio dello speaker, cioè nel senso i podcast parlati, alla fine dice, io l'ascolto a 48 kHz, cioè nel senso, no, a 48 kilobit, no? Cioè nel senso, che è una cazzata. Io non so chi lo dice, secondo me dice un po' un'esagerazione, perché è come sentire il Commodore 64, no? Cioè noi come radio sul nostro server trasmettiamo a 192. È vero che 128 può essere più che sufficiente, però 128 era la base, anzi era il massimo 10 anni fa. Oggi per Spreaker è la base, l'unica soluzione. Io posso anche trasmettere a 128, ma tu mi devi dare l'opportunità di poter trasmettere anche a frequenze superiori, in modo che comunque, se io voglio dare una qualità diversa ai miei utenti, gli utenti possano anche decidere in che maniera ascoltarci. Però vabbè, questo è un altro tipo di discorso che adesso non sta qui, non stiamo qui a fare, anche perché poi sarebbe un po' complicato. Comunque, quello che vi basta sapere è che ovviamente Spreaker ha iniziato a fare un po' quel che cazzo vi pare, e noi siamo insomma in aperta polemica. Tra l'altro, nell'aperta polemica loro ci hanno detto: vi risponderemo per posta elettronica. Quindi il modo in cui ci hanno risposto ha una scelta che loro hanno fatto, che adesso ribadisco non siamo qua, perché insomma sennò poi dopo diventa tecnico, bisogna spiegare cosa succede, e ci fa capire che loro si aspettavano un certo tipo di protesta, una decisione che loro hanno preso, e ci hanno tutta una serie di risposte precompilate. Vi risponderemo per mail, e la mail era una risposta precompilata, e allora lì noi stiamo andando un po' giù, diciamo così. Quindi ecco, se seguite Twitter, su Twitter Runtime Radio, andate, cercate la discussione con Spreaker e retweetate tutte le nostre risposte, likeate, condividete, insomma fate del vostro. www.runtimeradio.it. Vieni a scoprire la Radio Geek. Non c'è tempo, ragazzi, non c'è tempo. Ci ho provato a non tagliarla la canzone, come faccio io di solito, che poi imbucco dentro le canzoni. Però c'è una canzone di 6 minuti, è tanto, ve l'ho fatta sentire praticamente tutta, e quindi accontentatevi con 99 posse, che non c'è tempo, non c'è tempo, un tempo e non c'è un tempo, se ne va. E vi dico, la prossima puntata, come stavo dicendo, è invece, si intitolerà Ludo Machine, quindi tutte quegli strumenti, quelle applicazioni, quelle cose piene di luci, quelle promesse di soldi che ovviamente arrivano tramite i nostri smartphone, e che insomma alla fine secondo me incastrano il cervello di tantissima gente, e per cercare di capire anche come funzionano certe cose, per capire la vostra esperienza o l'esperienza di persone che conoscete, quanto questo tipo di applicazioni, questo tipo di sì, giochi anche, insomma, in qualche maniera riescano a creare un minimo di dipendenza. Se ci riesco, magari faccio la puntata con Francesco, anche se magari l'ho un po' buttata così, no? Perché magari lui non è disposto, però insomma vediamo un attimo di capire. Comunque io ho delle idee, quindi ne volevo parlare. Invece la canzone dei 99 boss fa riferimento al fatto che, alla domanda di questo episodio, che la domanda insunto, cioè se io avessi dovuto, cioè uno dice vabbè, ma la domanda, tu hai detto a che cosa rinuncereste per riappropriarvi del controllo del vostro tempo, quindi tra virgolette anche della libertà da un certo punto di vista, o di quel tipo di libertà. Però uno dice vabbè, ma niente, abbiamo mezza riga, come riassumeresti la questione? La questione la riassumerei con: ma vi siete rotti il cazzo? Perché questo secondo me è il succo dei succhi. Però intanto saluto Michela, saluto Walter, saluto Leo Vargion e tutti quelli che insomma ci stanno ascoltando. Non vi siete rotti il cazzo nel senso, Tutto questo discorso, la puntata che si chiama Living in a Box, nasce da una cosa che facevamo molto spesso io e Michela, che era quella di andare in giro e, andando in giro, sognando ovviamente di fare un cambio della nostra vita, anche se poi, diciamo, il fulcro di questo nostro sogno è concentrato su una cosa che diremo proprio alla fine, no? Perché diciamo che i vostri messaggi li ho spezzati in due, in modo da dividere proprio in due i due tronconi della puntata. Perché fondamentalmente so che è molto new age questa cosa, però, e so che molti di noi fanno presto a parlare perché magari si trovano in una condizione diversa, vantaggiosa, meno sfavorevole rispetto a tanti altri, però è vera una cosa, che, ma questo è vero da quando esiste la vita, fondamentalmente. Però mentre che una volta, comunque nel passato anche più remoto, diciamo, le persone dedicavano il proprio tempo alla propria al lavoro per questioni proprio pratiche, cioè nel senso di sopravvivenza, da quando poi è nato tutta una serie di strutture, diciamo, capitalistiche, l'industrializzazione, diciamo che poi alla fine le persone vengono acquisite per dedicare completamente il proprio tempo al vantaggio di X, cioè nel senso di altre persone. Quindi non è più il mio lavoro sui campi per fare le patate in modo che io almeno durante l'inverno non mangio le patate, è io lavoro per ricevere uno stipendio, diciamo, più o meno elevato, per avvantaggiare praticamente la ricchezza dell'azienda con la quale ovviamente collaboro, se è una collaborazione, o per la quale lavoro, se ovviamente è un semplice impiego. E chiaramente questa cosa ci fa riflettere, perché maggiore è la nostra il tempo che ci viene privato da il rapporto che possiamo avere con la nostra famiglia, con i nostri figli, dedicati alle attività che ci piacciono, ai nostri hobby, all'accrescere culturalmente, allo studiare, al viaggiare, all'essere curiosi, e più siamo, diciamo, controllabili da un certo punto di vista, cioè meno abbiamo tempo per evolvere, e giustamente poi più siamo lì condizionati da questo tipo di situazione, che chiaramente se di per sé non basta, perché poi dopo uno dovrebbe fare una riflessione, se di per sé non basta, c'è tutta una serie di sottomeccanismi che ti inchiodano all'essere quello che sei e a fare quello che fai. Voglio dire, tante persone adesso su YouTube, ma non soltanto, ma questa è una cosa che c'è sempre stata, e fanno questo discorso sul cambiare la vita, no? Cioè nel senso, basta, ho deciso di cambiare la mia vita, quindi abbandonare completamente determinati presupposti. Quindi qui viene la domanda: cosa rinuncereste voi per riappropriarvi del vostro tempo? E quindi fanno questo tipo di scelta e la comunicano agli altri, cioè, ragazzi, quanto è bello vivere in una baita in campagna dove io sono libero di scegliere quanto faccio e cosa faccio, e per me, no? O per me, per la mia famiglia, e via dicendo. È vero pure che molte di queste persone che fanno questo tipo di scelta, questo però non deve essere un atteggiamento settario, cioè lo dici perché così o colà, cioè nel senso o sono in quel modo o sono in quell'altro, c'è tutta una serie di sfumature, perché pure è veramente gente coraggiosa che lo fa veramente questo tipo di scelta, e lo fa magari anche a grosso rischio e pericolo, però c'è anche molta gente che lo fa perché magari è nelle condizioni di poterlo fare, perché se tu sei comunque un imprenditore che ha investito dei soldi, quindi hai tutta una serie di meccanismi, di contributi, di tasse, di finanziamenti, di cose che tu ovviamente hai messo su, hai strutturato su nella tua esistenza, è chiaro che svincolarti da questo tipo di cose, anche quando un giorno dici basta, mi sono rotto il cazzo, sai di poter essere nelle condizioni di poter fare una scelta, ma non puoi dal punto di vista proprio pratico, perché chiaramente non puoi far criminale, cioè non è che te ne puoi andare, cioè dove pare a te e quando te pare a te, e smette di avere rapporti con quelli che sono i tuoi impegni che tu hai già preso, non è una questione di debiti o non debiti, è proprio una questione di impegni. Cioè tu non puoi lasciare a scapito degli altri comunque degli impegni che tu hai preso, quindi non è poi così facile, no, fare questo tipo di meccanismo. E poi c'è anche dall'altra parte il fatto che noi soffriamo un certo tipo di vita, ma dall'altra parte, cioè alla fine comunque ci abbiamo le nostre tecnologie, ci abbiamo i servizi ai quali facciamo riferimento, ci abbiamo le Alexa, ci abbiamo il Netflix, ci abbiamo tutta quella struttura intorno a noi, che poi alla fine comunque dobbiamo decidere se essere disposti a lasciarle, ad abbandonarle questo tipo di cose per fare una scelta radicale, importante, ed essere anche felici, perché ovviamente se tu fai una scelta del genere la fai per cercare un po' la felicità, no? E questo è un po' il discorso, diciamo, che è una cosa che a me mi ha sempre affascinato, perché io comunque vedo tante persone che hanno trovato e fatto e avuto delle soluzioni, però magari erano delle persone che avevano, come posso dire, preso impegni minori rispetto all'esistenza. Quindi quelle persone che dice: ok, ho una casa ad esempio, vendo la casa, chiudo tutti gli impegni che ho, tengo le relazioni che mi servono io e me ne vado a fare il giro del mondo a piedi, cioè nel senso, perché poi, e poi diciamo, non la prossima puntata, che sapete di che cosa parliamo, ma la prossima puntata ancora torneremo su queste tematiche, parleremo proprio di viaggio in sé, perché anche qui parzialmente ne possiamo parlare, ma in realtà non è il tema il viaggio, è più la scelta di vita. Qui noi siamo, se la puntata precedente abbiamo parlato di libertà, in questo caso parliamo proprio di scelte di vita, cioè nel senso, in favore di questa libertà di utilizzo, che cosa saremmo disposti a fare. Ed eccomi qua, e quanto alla domanda: a cosa rinuncereste, esattamente la domanda che Simone Pizzi è, a cosa rinuncereste per conquistare la libertà di gestire il vostro tempo? Io non ci metto neanche il condizionale, vi dico a cosa ho rinunciato effettivamente, perché mi è successo volente o nolente, quindi sono preparatissimo. Praticamente tra il 2012 e il 2013 sono uscito da quello che era il mondo del lavoro dipendente, nel quale mi ero costruito anche una buona posizione, un ottimo stipendio, una rete di conoscenze e di contatti strutturata, in conseguenza poi di quello che fu la più classica delle crisi aziendali. Però a quel punto ho fatto un percorso, invece di mandare curriculum a IOSA, di lavorare per tornare nel mondo del lavoro dipendente, con tre amici e colleghi di una vita mi sono messo in proprio. Questo cosa ha portato a un totale cambio di paradigma in funzione appunto di riprendermi spazio e tempo. Prima di tutto ho rinunciato alla sicurezza economica, e questo non è stato facile, anzi diciamo che da un ottimo stipendio garantito tutti i mesi sono passato a una tragedia che nemmeno ve la voglio raccontare, soprattutto i primi anni. Però sono diventato padrone del mio tempo, non timbro più il cartellino, non passo mediamente 2 ore al giorno nel traffico di Roma, non ho orari precisi, non devo dare conto a nessuno. Quindi la vita è cambiata tantissimo, è cambiata in meglio, malgrado nelle tasche ci sia molto molto meno di prima e si faccia spesso e volentieri fatica. Ecco, per me quindi di conseguenza è semplice dirlo, mi sono ripreso il mio tempo rinunciando a delle convenzioni, all'essere il lavoratore tipico del mondo del mercato del lavoro, scusate le ripetizioni, e del capitalismo, no, mettiamola così. Oggi se non lavoro abbastanza non mangio, le tasse le devo pagare comunque, faccio fatica in tante cose, però mi sono comunque costruito tanti traguardi e tanti risultati. Oggi le cose vanno benino rispetto al passato, dovrebbero andare ancora meglio per stare tranquilli, però abbiamo imparato a convivere con la non tranquillità, col non sapere cosa succederà tra un mese, la prospettiva, la possibilità di fare previsioni quando scegli questa vita è molto breve, è molto bassa la possibilità di farlo. Viviamo veramente con una previsione dei tempi che verranno che non va mai oltre il trimestre. Ci accontentiamo, abbiamo imparato a farlo e alla via così. Sono molto più sereno e non avere soldi in tasca fondamentalmente neanche mi pesa tanto. Che domanda, anzi una domandona: cosa sarei disposta a sacrificare per la libertà? Posto che ognuno di noi ha una propria immagine della libertà, e per me significa sempre di più vivere una vita autentica, quindi in linea con il mio modo di pensare, di sentire, con i miei valori, i miei desideri. Posto questo, io sono disposta a sacrificare molto. Nel 2015, per esempio, ho lasciato il lavoro fisso, quello che in teoria un tempo i nostri genitori si portavano dietro per il resto della vita, un lavoro stabile, ben retribuito, un lavoro che mi faceva viaggiare, cosa che amo, un lavoro che era peraltro attinente agli studi che avevo fatto, cosa non da poco, e ci ho impiegato 7 anni, per cui anche la fuga verso la libertà comunque ha dei tempi strategici, e quindi ecco, io per la libertà ho rinunciato a questo, e questo poi ha comportato anche trovare negli anni successivi anche dei lavori che non mi piacevano. Non mi piacevano, però il prezzo era la libertà, quindi nessuno più che mi costringeva a timbrare il cartellino, che mi dicesse quando dovevo lavorare e come. Adesso ho la libertà che mi sveglio, posso fare una passeggiata sul lungomare, poi torno, lavoro, insomma è inutile che si elencare i vantaggi della libertà: potersi dedicare alla famiglia, alle cose importanti della vita, alle relazioni, ma anche allo sviluppo personale, alla musica, al podcast e a tante altre cose. Ecco, quindi c'è chi dice che si passa la prima parte della vita ad accumulare cose, oggetti, beni, sapere, esperienze, stimoli, e poi nella seconda fase della vita, e io ci sono dentro ormai da qualche anno credo, si tende a togliere il superfluo e si va all'essenziale. Quindi per me a quest'età la domanda non si pone più neanche a che cosa potresti rinunciare per la libertà, perché la libertà è diventato talmente un desiderio forte, costitutivo del mio vivere, che tutto ciò che tolgo, che non è essenziale, in realtà è un dono. Il problema è che è un po' difficile farlo, perché no, siamo abituati a una vita anche comoda, la routine ci devasta, ma ci dà sicurezza, quindi secondo me, per me il problema è quello. Allora, questi erano Walter e Simona, ma li ho messi insieme, devo mettere un micro... una transizione, no? Cioè tipo un così tra uno e l'altro, giusto per invece di essere un po' selvaggia la cosa, però li ho messi insieme perché sono due messaggi molto simili fondamentalmente. E partono magari da presupposti diversi, contesti anche familiari diversi, però nel senso entrambi hanno fatto parzialmente una scelta nella loro vita, cioè quella comunque di cercare di riprendersi qualcosa a discapito di qualcos'altro, ma questo fa parte dell'equilibrio, no? Cioè noi sappiamo che se facciamo questa scelta la facciamo in virtù del fatto che chiaramente dobbiamo rinunciare a qualcosa, e quel qualcosa può essere la stabilità economica, ad esempio, cioè nel senso anche più che la stabilità, anche una condizione di più che stabilità economica, cioè magari comunque un tenore di vita anche magari superiore rispetto a magari alla media, piuttosto però voglio dire di rientrare in possesso del fatto di avere l'opportunità e anche il tempo di dedicarsi a determinate cose, perché poi alla fine, al di là del concetto estremamente new age, no, di cui stiamo parlando, in realtà il vero problema è proprio che non è così aleatorio il fatto riprendiamoci il nostro tempo. E che cos'è questo tempo? Questo tempo è proprio poter aiutare i nostri figli a fare i compiti, guardare insieme un film, fare delle passeggiate. Cioè noi per esempio con Matteo, quando andavamo in giro per Roma o ai fori imperiali di notte o roba del genere, quello era tempo che tu guadagnavi, che tu ottenevi, ma che lo conquistavi strappandolo a qualcos'altro, al fatto che magari uscivi la mattina alle 7 per prendere dei mezzi per arrivare dall'altra parte del Lazio e poi ritornare indietro, e alla fine tu uscivi alle 7, tornavi alle 9:30 di sera, e facciamo questo, ma chi ve se incula? Cioè, allora non è cattiveria, è che questo tipo di condizione ti strappa via proprio non solo il tempo, ma ti strappa via proprio la voglia, la forza, che poi è quello, capito, il problema. Cioè comunque sapere che tu non riesci a dare, capito, spazio alle cose che secondo te sarebbero importanti, che possono anche essere degli hobby, eh? Cioè io voglio fare le miniature, voglio pitturare le miniature, cioè nel senso che lì le statuine, voglio giocare a Warhammer, boh, adesso sto facendo degli esempi stupidi, non ci ho mai giocato a Warhammer, non so neanche come ci si gioca, però in generale comunque conosco persone che erano appassionate del modellismo, e perché dedicare solo parte del weekend a cose che comunque per te sono importanti, che possono essere anche la lettura, no? E cioè, alla fine quanto tempo ti rimane? Poi dopo che hai fatto? Tu magari hai lavorato per 40 anni e alla fine sei talmente condizionato da questo meccanismo, e questo guardate che succede molto spesso, che il giorno in cui vai in pensione, beata chi ci riesce ad andare, il giorno dopo muore, perché dice non so più che cazzo fare nella vita, capito? Perché non hai costruito un qualcosa che ti appartiene anche per dopo, quando hai smesso di lavorare, ma non l'hai fatto, non perché sei ignorante, perché sei zodico, perché ci stanno anche quelli senza meno, ma l'hai fatto perché semplicemente non ci avevi la forza per poterlo fare. Questa è la cosa forse secondo me più grave. Intanto saluto sia Samuel che Francesco, che ci hanno raggiunto ovviamente in chat. Vuoi essere sempre informato su quello che succede in Runtime Radio? Puoi seguire gli eventi della tua radio preferita tramite Telegram, cercando il canale Runtime Radio, oppure interagire con noi durante le dirette su telegram.me/diretterontime. Se sei ancora più social di così, allora ti consigliamo di seguirci anche su Instagram cercando Runtime Radio. Ci sono molti modi per seguire Runtime Radio, la web radio geek. Cercaci, ci troverai sempre! Branduardi ci ha regalato una canzone un po' lunghetta, diciamo così, stamattina tutte canzoni lunghe. Tra l'altro, leggendo un po' il messaggio anche di Leo, che giustamente dice sì, ma nel senso magari noi quelle cose che ci siamo incastrati intorno sono le cose che abbiamo scelto, no? Cioè non è detto che dobbiamo avere per forza l'esigenza di rinunciare a qualcosa, no? Cioè nel senso non tanto la questione della forza, ma proprio la voglia, perché magari quello che noi abbiamo costruito, magari qualcosa abbiamo rinunciato proprio per amplificare di più questo tipo di discorso, però magari c'è sta qualcosa che in realtà ci appartiene, quindi non tutti in realtà vorrebbero rinunciare a questo tipo di discorso, ed è un po' più o meno quello che è il discorso anche che secondo me, io non l'ho ancora ascoltato il messaggio, perché però mentre che editavo un po' per dare una pulita quella, insomma un po' l'ho intrasentito, diciamo così, ed è secondo me il messaggio anche un po' di Olivia, che ovviamente ci torna anche oggi con la sua supercazzola che noi adoriamo, perché oramai è fa parte, cioè tu puoi fare una puntata dove ci sono i contributi degli utenti, degli amici di Runtime, che non c'è sta Olivia che fa la supercazzola, insomma non si può fare, no? Nel cuore del cosmo rinuncerei per disporre autonomamente del mio tempo? Allora, è una domanda molto importante e la prima cosa che mi viene in mente è che purtroppo oggi noi non disponiamo del nostro tempo, perché per vivere dobbiamo sostenerci e per il nostro sostentamento è necessario lavorare, e quindi il nostro lavoro occupa gran parte della nostra giornata, in attivo, non la parte che si dorme. E vabbè, ma questo insomma non è una novità, non l'ho detto prima io e non sarò l'ultima a dirlo. Allora ho iniziato un po' a riflettere e mi sono detta che probabilmente se esistesse un mondo dove io avessi la possibilità di non lavorare per vivere, farei quello che mi piace fare, cioè comunque visitare dei luoghi, dedicare del tempo agli amici, anche quelli che magari vedo meno, e studiare, leggere, informarmi, fare tante cose, perché effettivamente ci sono tante cose che mi interessano, ma dal banale vedere i film, ascoltare la musica, suonare di più, eccetera eccetera, insomma proprio cose così. Però mi piace anche studiare, e che cosa farei? Dedicherei anche molto così piacevolmente del tempo agli altri. Ora purtroppo questo mondo così è un mondo che non è possibile, non è possibile portarlo a termine, e quindi che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare, mi sono messa a pensare, e ho pensato che si potrebbe dare origine a un mondo dove invece che di lavoro si vive, cioè si vive di lavoro, ma di lavoro inteso come disponibilità di tempo. Tu dedichi il tuo tempo in una sorta di comunità, tu dedichi il tuo tempo a fare qualcosa e gli altri dedicano il proprio tempo, e quindi dedicando ognuno il proprio tempo poi tutti quanti ne traggono beneficio. Ma questa è un'utopia secondo me, perché dedicare del tempo ad un'attività in cambio di qualcos'altro equivale comunque a lavorare, e quindi poi per riuscire ad avere questo qualcos'altro e a ripagare comunque questo qualcos'altro, devi sempre diciamo quantificare il tempo, e quindi non hai la disponibilità totale del tempo, di tutto il tuo tempo, perché comunque un po' di tempo dovresti per forza dedicarlo al ripagare diciamo le cose che ti danno gli altri. E quindi e quindi come si fa? È un problema, perché per una come me che purtroppo, dico purtroppo, ma è tanto legata alle cose materiali, e che diciamo io cerco sempre di gestirmi in modo tale di non fare né richieste, di non avere desideri troppo esagerati, quindi io cerco di essere sempre razionale su tutto ciò che mi può servire, su tutto quello che voglio fare. Non so quanti di noi si possano permettere di fare tutto quello che vogliono, quindi in realtà noi già una razionalizzazione la facciamo, perché chi si può permettere di fare tutto quello che vuole è chi, non lo so, ha una vita diversa, ma io non faccio parte di questo target, quindi tecnicamente io già rinuncio a delle cose. Rinuncio a delle cose sia perché economicamente non ci arrivo, e sia perché non ho tempo di fare tutte le cose che vorrei. Quindi io sinceramente non ho la risposta a questa domanda, perché è una domanda veramente tanto tanto difficile. E perché alla fine secondo me nella vita per fare qualcosa bisogna sempre rinunciare a qualcos'altro, perché chi ha un minimo di interesse per la vita, per l'arte, per la storia, per il viaggio, per qualsiasi cosa, non credo che abbia il tempo di conoscere tutto. Quindi comunque a qualcosa bisogna sempre rinunciare. Ok, avete capito, no? Cioè, a me sembra abbastanza chiaro il concetto di Olivia, che in realtà avrebbe 5 minuti per dire che lei in realtà non lo sa se rinuncerebbe a qualcosa per guadagnare la sua libertà, perché poi in realtà lei è comunque molto legata al tipo di vita che fa, non solo alle cose materiali nello specifico, ma proprio comunque in generale legata alle cose che fa. E questa cosa comunque in qualche maniera diciamo la condiziona, anche perché poi il ragionamento, cioè la chiusa della frase è: tanto non ci avremo mai il tempo di imparare tutto e conoscere tutto e visitare tutto, cioè, quindi tanto vale, insomma, no? Cioè, perlomeno io così l'ho interpretata. Ma veniamo poi invece alla seconda parte, che è un po' più stringata. In realtà ne avrei voluto parlare meglio, ma siamo andati molto in là con i tempi, anche per colpa dei brani chilometrici che abbiamo messo, che è quello del discorso delle persone che fanno una scelta di vita molto importante, anzi sono diversi tipi di scelte molto importanti. Una di queste ne parlerò proprio specificatamente in un'altra puntata, perché mi piacerebbe parlare di persone che rinunciano a quello che è il mattone nel senso più tradizionale, culturalmente vincolante secondo la nostra società, e scelgono di fare una vita magari sempre stanziale, ma con dei costi assolutamente irrisori, riprendendosi anche lì un po' il proprio tempo, il proprio spazio e anche le proprie risorse, perché io comunque, se devo vivere in una condizione che mi costa 500, 600, 700 euro al mese di mutuo, che mi è costato centinaia di migliaia di euro per averla acquistata, roba del genere, perché non vivere in una cosa che... in una casa che mi può potenzialmente costare 15.000 euro e potermi quindi poi reinvestire tutti i soldi che risparmio in questo tipo di situazioni, insomma. Ma quella è una puntata, ne parleremo poi un'altra volta. Però invece, nello specifico, tutte le persone che scelgono a un certo punto che abbiamo visto con Michela, quindi Living in a Box, tutte le persone che scelgono di vivere dentro una scatola, dentro un camper, che a un certo punto lo fanno per viaggiare per il resto del mondo, oppure lo fanno semplicemente perché ritengono che quella sia la loro vita in quel momento, quindi magari lo spostarsi, lo svegliarsi ogni volta in un posto diverso, ma magari rimanere sempre un po' nel circondario, perché magari il loro lavoro gli permette di fare questo, perché magari lavorano nell'ambito del digitale, perché possono lavorare in smart working, perché possono lavorare nell'ambito del ovviamente utilizzando le linee internet, e quindi non hanno bisogno magari di un ufficio fisico, ecco. Questo, ce ne sono tante persone che hanno fatto questa scelta, e è una cosa che deriva da un certo tipo di filosofia che viene dagli Stati Uniti, che insomma sono comunità intere che vivono in questa maniera qua, che in Italia è molto più limitato come tipo di discorso, però in realtà esiste, e non dico che è in grandissima crescita questo tipo di fenomeno, ma è in realtà un qualcosa che c'è, che sta crescendo anche qui, questa esigenza anche nei confronti dei giovani, quindi non soltanto le persone anziane. E forse per i giovani è anche più facile, perché magari hanno ancora meno impegni, non hanno fatto in tempo ancora a prendere quegli impegni radicali nei confronti della vita, e perché magari fanno proprio un tipo di attività che gli permette di poter fare questa scelta, perché sono giovani e lavorano nel mondo della tecnologia. E allora, aspettate che mi sono perso il mouse, e allora ecco altri due contributi, riprendendo insomma da Walter e da Simona. E alla seconda domanda, se vivrei in un camper, in certi momenti penso più facilmente di sì, in certi momenti meno, però vi dico la verità, la risposta è tutto sommato sì, ma deve avere il bagno. E per quello che riguarda la seconda domanda, se sarei disposta a viaggiare in un camper per il mondo, la risposta è no. No, perché da sola non lo farei mai, e in coppia credo che uno dei due, dopo forse un paio di settimane, morirebbe anche male. Io ho una concezione del mio spazio vitale importante, nel senso che amo stare in relazione con le persone, ma ho bisogno proprio di un mio spazio vitale, anche fisico, geograficamente ben delineato, quindi l'idea di comunque fare una vita in comune, pasti, lavoro, perché è vero che poi uno con il camper vede il mondo, può anche uscire, no? Anzi, soprattutto esce, vede il mondo, però dovendo poi anche lavorare e fare anche delle attività, mi figuro dei giorni di pioggia, stare in un ambiente angusto con un'altra persona, a me non piacerebbe, anche se comunque viaggiare con un bagaglio leggero è un po' il mio sogno, cioè viaggiare nella vita, e ritorno al discorso di prima, no? Andare all'essenziale, togliere il superfluo, fare un viaggio in un camper dove vuoi o non vuoi ci stanno pochissime cose, penso che sia un'occasione di conoscenza di se stessi molto importante, e anche conoscenza del mondo. Però ecco, io non lo farei più che altro per lo spazio e un gusto, e poi io non lo so se ha a che fare col fatto che sia del Toro, cioè non è che creda molto nell'astrologia, però in questa cosa mi ci ritrovo, sono abbastanza stanziale. Adoro viaggiare, ma adoro tornare, e comunque adoro anche abitare dove ho le mie radici. E quindi, ecco, per me non sarebbe una cosa praticabile. Ecco. Ringrazio di nuovo Simone, che con queste belle domande mi ha dato la possibilità di riflettere su dei temi importanti. E saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Runtime Radio. Grazie. Allora, Simone Ortolani, gli scimmioni non leggono Nietzsche, ci fa una riflessione importante su questa cosa, che in effetti a volte io tendo a escludere, quando dici no, ma io non lo farei, ma no, ma secondo me tu non sai come funziona, non sai, non... però in realtà alla fine ci sta, cioè perché uno dovrebbe per forza condividere un pensiero del genere? Cioè, è chiaro che poi se tu sei abituato ad avere un tuo rapporto anche con la tua solitudine, con le tue cose, non è detto che tu questa cosa non riesca a costruire anche in una vita in camper, che non è detto, cioè assolutamente, però è vero pure che comunque non tutti sarebbero disposti, diciamo, a vivere. Però ecco, questa secondo me è la soluzione se sei da solo o se sei in coppia, una coppia che comunque è in grado di saper gestire questa cosa anche in momenti di crisi, perché naturalmente ci saranno, ci sarebbero momenti di crisi, no? Cioè, nel senso, momenti di discussione, di aria pesante, diciamo così. E per esempio ci sta, perché io comunque ne conosco tanta gente che dice, ma io alla fine sì, mi piace andare in giro, mi piace conoscere cose, però mi piace anche tornare a casa mia. Ecco, forse questo concetto in realtà ce l'abbiamo tutti, perché il senso dell'appartenenza, delle radici, secondo me è abbastanza importante, però poi alla fine a volte è e rientra nel discorso della prima domanda: a cosa saresti disposto a rinunciare? Ecco, io a questa è una di quelle cose che sarei disposto a rinunciare per poter prendermi il mio tempo e avere una scatola nella quale andare in giro nel mondo con mia moglie, per esempio, perché è proprio un nostro sogno fondamentalmente. Ma in realtà poi forse il sogno più realistico è quello di comprarsi questa scatola, perché non è così assolutamente semplice, insomma. Vabbè, poi qui vedo, insomma, che state a fare discussioni anche cinema fotografiche molto interessanti, fino a che ovviamente lei non ha tirato fuori Evangelion, e vabbè, lì è caduto tutto, insomma. Vi suggerisco di ascoltare questo audio, che è di Andrea, perché Andrea è una persona che oramai è entrata un po' a far parte del nostro gruppo, della nostra cerchia, è quasi sempre presente in Runtime by Night. Vi ricordo, domani sera ore 23 su runtimeradio.it, una bella puntata. Andrea in realtà c'è un po' cresciuto dentro al camper, quindi c'ha proprio un'esperienza diretta su questo tipo di discorso. Ciao Simone. Beh, alla domanda vivreste in camper, potevo esimermi dal rispondere? Assolutamente no. Come tu ben sai, io ho iniziato a viaggiare molto presto in camper, mi pare dall'età di 6 mesi. I miei genitori sono sempre stati dei camperisti, hanno iniziato molto molto presto, per loro era un modo diverso di viaggiare, anche perché trovavano, e pensa all'ironia della sorte, opprimente e un po' claustrofobico stare in albergo, e poi avevano la passione di vedere tanti posti in poco tempo, anche se in realtà poi durante l'inverno, con il lavoro di mio padre, le ferie erano molto lunghe, quindi anche essendo un lavoro stagionale, anche un mese e mezzo, 2 mesi, e quindi si potevano vedere tantissimi posti. E quale modo migliore se non viaggiare con tutta la casa appresso? Ed ecco quindi che io ho iniziato prestissimo a viaggiare. Il mio primo viaggio è stato attorno ai 6-7 mesi, non ricordo bene se era in Egitto o in Marocco, con una roulotte, e non era certo un camper, e quindi niente bagni, si viaggiava in macchina e non belli seduti spaparanzati in camper, e ovviamente ci si fermava appena possibile per poter andare in bagno, per poter mangiare. Era ben diverso dal viaggio fatto in camper. Ci sono alcuni aspetti del camper che sono forse agli occhi di qualcuno un po' claustrofobici, tipo dormire. Se ci pensi, insomma, è un'esperienza un po' diversa dal vivere dentro un appartamento con qualcuno o dentro una camera d'albergo. anche perché il nostro primo camper, uno scout, era lungo 3,40 metri. In 3,40 metri c'erano ben 6 posti letto e noi a volte siamo andati via anche in 6 dentro quei 3,40 metri, che voleva dire vivere veramente schiacciati come delle sardine. E poi immaginare, c'era un armadietto per contenere tutto quanto. E noi comunque non ci siamo mai fatti mancare niente. Nei nostri viaggi avevamo piatti pronti, si mangiava pasta, si mangiava qualsiasi cosa. Difficilmente ci mancava un po' di cibo italiano in giro, anche se soprattutto all'inizio viaggiavamo mangiando e fermandoci a mangiare in moltissimi luoghi del posto. Ho tanti ricordi riguardo ai nostri pasti in posti improponibili. Ho mangiato, mi ricordo, una pizza margherita in Marocco, e parliamo degli anni 80, di cui di pizza margherita non aveva neanche la forma probabilmente. E non oso domandare neanche ora adesso, dopo più di 30 anni, che tipo di formaggio fosse quello che ho mangiato sopra, e probabilmente non era neanche formaggio. Però quando poi ci fermavamo in posti incredibili, esempio dove adesso c'è Sharm el Sheikh e che ovviamente all'epoca non c'era niente, era una distesa di sabbia, e guardavamo il tramonto mentre intanto preparavamo un piatto di pasta da soli, o quando per esempio nel deserto ci siamo svegliati e c'era l'alba e c'era solo il deserto, beh, in quei momenti non ho mai pensato di essere in una scatola di 3,40 metri, ma mi sembrava di essere la persona più libera del mondo. E quindi alla tua domanda io dico sì, certo, e mi piacerebbe viaggiare ancora. Bene, bene, bene, ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo per i saluti. Vabbè, caro Alan Parsons Project, purtroppo te devo un po' sdrumare così, in questa maniera un po' brutale, perché niente, praticamente, che devo dire, andiamo verso i saluti. Ragazzi, vi ricordo, no scusate, ma stavo un po', perché c'era, in realtà c'era un messaggio pure di Davide Gatti, ma mo cerco di metterlo quando ho finito di salutare, così va e poi se l'ascoltate, perché è un po' lunghino, insomma. Davide Gatti, ricordiamo, Survival Hacking, perché insomma era interessante anche il suo punto di vista. Però a me, boh, alla fine, piuttosto di stare lì a ribattere le cose che dite, mi interessa ascoltare quello che dite, e mi interessa che voi vi esprimiate e sentiate la possibilità di capire che questo è un programma che va bene per esprimere le proprie considerazioni. Vi ricordo che la prossima settimana parleremo appunto di Ludo Machine. Cercherò poi di spiegarvi, insomma, durante la settimana di che cosa parleremo veramente. Vi ricordo invece che domani sera alle 23 saremo live con Runtime by Night, che domani mattina con Michela saremo live alle 8:30 con Disordinati Informati, che tutta la settimana riprenderà con grande successo. Ma in particolare martedì è un giorno importante, perché il martedì alle 8 iniziano le, insomma, trasmetteremo una puntata di Radio Anziano a partire dalla prima stagione, il martedì e il giovedì alle ore 8, mentre martedì sera alle 21 torna la grande notte horror di Runtime Radio in collaborazione con i ragazzi di Test di Fear, che però inizieremo da un racconto che abbiamo già trasmesso, che è La Nuova Scuola Cinica, e poi trasmetteremo successivamente anche i nuovi racconti che stanno ovviamente realizzando, fino ad arrivare, secondo me sarebbe carino, ad avere un programma, un talk show proprio su queste tematiche, che sarebbe interessante. Sto lavorando ad altri progetti che vedrete che saranno molto interessanti, se ci riesco, non è detto, perché insomma non tutti poi sono disposti a concederti, diciamo, questi spazi. Mentre che giovedì prossimo, vi ricordo, alle ore 21:30 c'è, cioè, Quando Eravamo Futuro, ci sarebbe dovuto essere questo giovedì, ma in realtà poi non ce l'abbiamo fatta per varie ragioni. Detto questo, io penso di aver detto tutto, insomma, in linea di massima. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me. Vi ascoltate tra un minuto anche Davide Gatti, che insomma dice la sua. E grazie a tutti per esserci stati.